panico e sono in preda a un attacco di panico. Fino a un minuto fa ero fantastico, ora ho un malessere psicosomatico. Carico, scarico, un attimo e panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico. Non so chi tu sia, che ci faccio qui. Mi sembra di aver preso in pieno un tir. È uno shock che crea un effetto wow, un bagliore di luce dopo un blackout. Ma tu che ne sai cosa provo io? Vorrei vedere te qui al posto mio. Stesso club e la stessa house, è la solita gente, ma sai alle volte un attimo è panico. E sono in preda a un attacco di panico. Fino a un minuto fa ero fantastico, ora ho un malessere psicosomatico. Carico, scarico, un attimo è panico. Lascio passare questo senso di tragico. Scende l'adrenalina e il tasso alcolico, ed è un miracolo se ora non vomito. Carico, scarico, lasciami un attimo. Data così, meglio andare via. Magari faccio un salto a casa tua. Se dormo un po' mi perdonerai. Non lasciarmi da solo, non si sa mai. Chissà che cos'è che ci prende così, a noi che siamo invincibili. Poco fa era tutto un wow, in una notte qualunque, ma sai alle volte un attimo è panico. E sono in preda a un attacco di panico. Fino a un minuto fa ero fantastico, ora ho un malessere psicosomatico. Carico, scarico, un attimo è panico. Lascio passare il momento drammatico, senza pensare a tutto quello che dicono. E c'è un miracolo se ora non vomito. Carico, scarico, lasciami un attimo. Panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico, panico.